iniziare il 31 marzo. Primo marzo. Data. 31 marzo. 30 marzo. Oggi cos'è? 31. E tu sei indietro di un giorno. Ah, sì? Dove? Il nome dell'hotel, com'è? Bucaneve. Cosa significa? È un fiore. C'est un fleur. Ah, sì. È disegnato da qualche... Vero signora che è... Bucaneve. Primaverile. È un fiore. Ma è primaverile, come si dice? Sì, sì, sì. Come? Un fiore primaverile. Printemps. Primavera. Sì, primavera. Primavera. C'est un fleur. Team player. È contenta. Ora no. Ma io l'ho visto disegnato da qualche parte. Sì, però io lo faccio vedere su un disegno, su un foglio piccolino. Petit, se fa grande, perché... No. Ce l'ha lei? La fleur, c'è ça. Sì, il personaggio. Ma maintenant, la dame prend le livre. Il y a les couleurs, c'est plus parfait. Perché ça, c'est nous qui l'avons fait. Ma maintenant la dame va prendre des livres avec la fleur boucaneve. Avec la fleur boucaneve. Ecco. Qui da noi, qui davanti. Davanti alla vetrata d'oro. Boucaneve. C'è con la vetrata. Sì. Molto.